Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il buongiorno vi viene anche da Miriam Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Anche quest'oggi vi ricordo che potete commentare, porre domande e criticare ciò che viene detto in trasmissione via mail nessunluogo@radio24.it, via sms al 349-238-6666 e poi Facebook e Twitter sono qua sotto i nostri occhi, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e i 5T invece a Nessun Luogo 24. E quest'oggi vi propongo un viaggio in Honduras. E andiamo a Tegucigalpa, dove ieri vi sono stati 7 feriti e 25 arresti tra un folto gruppo di contadini che arrivavano nella capitale dai territori del nord ed erano lì per protestare contro un governo e un sistema giudiziario a loro dire sempre più iniquo e che privilegia solo i grandi proprietari. Ma la questione terriera è solo una delle tante questioni irrisolte del piccolo paese dell'America centrale. Dopo il golpe di 3 anni fa, le forze dell'ordine fronteggiano la crescente forza dei narcotrafficanti, che trova validi alleati anche tra politici e poliziotti corrotti, come spesso accade nelle dinamiche legate al narcotraffico mondiale. Nei grossi centri, nella capitale, poi soprattutto, c'è lo strapotere delle gang, soprattutto nei quartieri più poveri, che rende l'Honduras uno dei paesi più pericolosi al mondo. Un omicidio ogni 74 minuti. Ragionevolmente, prima della fine di questa trasmissione, vi sarà un cittadino honduregno che rimane sul campo. Nelle tante guerre che si incrociano in questo paese, nel mirino vi sono non solo le gang rivali e poliziotti, ma anche gli attivisti dei diritti umani, i giornalisti. Una recente inchiesta di The Nation, ripresa in Italia da Internazionale, compie un'impietosa radiografia del paese. A 3 anni dal golpe che ha deposto Manuel Zelaya, gli Stati Uniti appoggiano il governo di Porfirio Lobo in nome della lotta al narcotraffico e della stabilità, ma ci si interroga su che fine abbia fatto e che fine farà la democrazia in questo paese. Un paese piccolo, è vero, 8 milioni di abitanti, ma importante, cruciale, strategico, soprattutto per il grande attore di quell'area che sono gli Stati Uniti. E allora chiediamo proprio a Roberto Darin, che è inviato del Sole 24 Ore per il Sud America, di spiegarci meglio il rapporto tra Honduras e Stati Uniti e perché questo piccolo paese è così fondamentale per gli USA. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. L'Honduras è un piccolo paese centroamericano, bioceanico, tanto per cominciare, quindi ha 2 affacci, uno sull'oceano Atlantico e uno sull'oceano Pacifico. E da sempre viene considerato di importanza cruciale per gli Stati Uniti, perché appunto è un paese centroamericano che, a differenza del Nicaragua, del Salvador, dove la presenza degli Stati Uniti non è sempre stata vista con simpatia dai cittadini, l'Honduras invece è una regione, un paese dove gli Stati Uniti hanno potuto fare il bello e il cattivo tempo. Ora, il golpe che è stato ricordato poco fa nell'introduzione, di 3 anni fa appunto, ha visto protagonisti indiretti gli Stati Uniti, che hanno accettato questo atto destabilizzante che ha messo fuori gioco Manuel Zelaya, il presidente in carica in quel momento, e ha fatto salire in carica Roberto Micheletti, il golpista. Bene, gli Stati Uniti sono stati il paese che ha contrastato in maniera più tenue nell'emisfero occidentale questo golpe, tanto che il Brasile per la prima volta ha deciso di contrastare apertamente gli Stati Uniti proprio per ristabilire un ruolo strategico che fino a quel momento nell'area che fino a quel momento aveva lasciato agli Stati Uniti. Bene, la questione narcotraffico direi che è quella più centrale. Gli sì. Stati Uniti rimangono, piaccia o no, il principale mercato di sbocco della droga, e l'Honduras è un paese importante nello snodo del commercio di stupefacenti. Questo, diciamo, questa è la ragione principale, anche se appunto poi anche da un punto di vista geostrategico, geopolitico, rappresenta un punto d'appoggio rilevante, perché stiamo parlando di paesi istmici, perché sono quelli che dell'America centrale che poggiano su un istmo di terra, quindi Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Panama. Ecco, l'Honduras è il paese che ha sempre ospitato delle basi americane sì. con più facilità, e che ha avuto, cui è stato dato un appoggio migliore da parte degli honduregni. Ecco, hai citato, mi sembra, due punti fondamentali: da un lato quello che è la logica del narcotraffico, il mercato di sbocco principale per la cocaina, oltre che l'Europa quando attraversa l'oceano e arriva fin da noi attraverso l'Africa occidentale, è sicuramente appunto quello statunitense, e la lotta al narcotraffico, insomma, è da sempre in quella regione una delle priorità dei governi statunitensi. Poi però hai toccato il punto fondamentale, che gli Stati Uniti e il governo Obama da questo punto di vista non ha fatto eccezione, cercano sempre di tenere un piedino in quella regione turbolenta, perché c'è poi una forza centripeta attorno a Chavez, no? Che assolutamente può essere destabilizzante per il futuro. Grazie Roberto per essere stato con noi, per averci intanto dato questa prima immagine del paese, che ci aiuta a capire meglio, insomma, quali equilibri geopolitici sono in gioco. Buona giornata Roberto, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. E oggi però io vi propongo un viaggio a ritroso nel tempo, vi proporrò di tornare indietro, ricordare, chi gli ascoltatori più attenti forse ricorderanno quell'episodio 3 anni fa e tutti gli strascichi di polemiche che ha portato anche qui in Italia, anche se i media italiani non se ne sono occupati moltissimo, quel golpe e il ruolo degli Stati Uniti, come già Darin ha in parte detto. Prima di tornare indietro però di quei 3 anni, ricapitoliamo i numeri di questo piccolo paese. Con una popolazione di circa 8 milioni di abitanti, l'Honduras, paese dell'America centrale, è il secondo più povero dell'emisfero occidentale. Circa il 53% della popolazione è rurale e si stima che il 75% viva al di sotto della soglia di povertà. Secondo la Commissione economica delle Nazioni Unite, mentre in America Latina dal 1990 al 2010 il tasso di povertà è sceso dal 48,4 al 31,4%, l'Honduras ha segnato un trend di senso opposto, con tassi di povertà in aumento dell'1,7%. Nonostante la speranza di vita alla nascita sia di 70-71 anni, l'età media della popolazione è di 21 anni e solo il 4,3% supera i 65 anni. Noto anche per la diffusa criminalità, secondo le Nazioni Unite, l'Honduras ha il più alto tasso di omicidi per abitante al mondo, con 86 omicidi ogni 100.000 abitanti, punte di 135 a San Pedro Sula, seconda città del paese, e di oltre 80 a Tegucigalpa. Si calcola che vi siano nel paese circa 1 milione di armi leggere. Microcriminalità, sequestri di persona e traffico di droga sono tra le piaghe che affliggono il paese. Nella capitale e negli altri centri urbani dell'Honduras, la concentrazione dei reati riguarda principalmente le aree più povere e marginali, tra cui il centro di Tegucigalpa e la città gemella di Comayagüela. Questa è la fotografia dei dati, i numeri parlano chiaro di questo piccolo paese, ma noi vogliamo andare proprio a quel 28 giugno del 2009. Tranquilo protestando. Llamamos al pueblo a que agarre las armas ya. Un gobierno nuevo de orden fascista. The army expels President Manuel Zelaya from the country. El suministro eléctrico se suspende y la programación de radio y televisión queda interrumpida. El golpe de Estado acaba de comenzar. I suoni che avete sentito sono tratti da un documentario che si chiama Golpe nella prigione verde, appena uscito, a firma di Roberta Ferrari, che è una documentarista, una filmmaker italiana, a cui do il mio benvenuto. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto partiamo dal titolo, Golpe nella prigione verde. Perché Honduras come prigione e perché verde? L'Honduras è un bellissimo paese geografico, nonostante occupi una pessima posizione geopolitica. E Prigione Verde è il titolo di un romanzo honduregno degli anni 50, molto attuale, che descrive l'Honduras come una prigione verde. È infatti in Honduras che nasce il termine Repubblica Bananera agli inizi del secolo, e quindi mi sembrava come attuale sia il romanzo che insomma la descrizione. E quindi il titolo che è molto noto in Honduras. E quindi c'è questo riferimento letterario. Roberta, tu con Nacho Caro, che è l'altro autore del documentario, ti sei trovata quasi tuo malgrado, no? Coinvolta in quegli eventi di cronaca che immediatamente hanno mostrato, come dire, la loro potenza, perché gli eventi sono succeduti con una altissima velocità, almeno all'inizio, e hai deciso di raccontare, hai messo in fila in maniera molto chiara, molto lucida, quello che è accaduto da quel 28 giugno, quando l'esercito ha fondamentalmente deposto Manuel Zelaya, che era un presidente democraticamente eletto, e poi di lì quello che abbiamo ricordato nella prima parte della trasmissione. L'Honduras però, come tanti ai noi paesi del Centro America, non erano nuovi a colpi di Stato. Questo golpe però ha avuto delle peculiarità, quali possiamo focalizzare? Ma innanzitutto il fatto che sia sicuramente avvenuto in un periodo in cui tutti pensavano che le dittature in America Latina fossero finite. Allora saranno finite le dittature, ma non i metodi dittatoriali, e quindi in qualche modo è una novità, ma fino a un certo punto, ecco. All'inizio mi sono trovata lì, è stato quasi un gesto di partecipazione spontaneo, quindi sia io che Nacho, se abbiamo avuto un merito è stato quello di filmare. Poi successivamente abbiamo deciso di approfondire l'argomento, che comunque già un po' conoscevamo perché ci muoviamo spesso in quell'area, abbiamo insomma svolto dei lavori in quell'area, e quindi confrontandoci con le persone abbiamo capito che la novità principale era che questo avvenisse nell'era Obama, cioè il primo golpe col quale si deve confrontare l'amministrazione, sì, Obama. E l'altra cosa è che ha creato un movimento di massa partecipativo molto sentito e molto forte. Roberta, quindi ti interrompo perché c'è l'informazione finanziaria, poi di nuovo torneremo a parlare del golpe nella prigione verde. Nessun luogo è lontano. Il 28 giugno del 2009 l'esercito deponeva Manuel Zelaya, il presidente dell'Honduras, dava l'avvio a un colpo di Stato inizialmente da cui Washington prese le distanze, poi in realtà gli Stati Uniti hanno poi appoggiato il successivo governo. Stiamo ricostruendo quegli eventi per capire che direzione sta prendendo questo piccolo e strategico paese dell'America centrale. Sulla nostra pagina Facebook abbiamo postato il link a quello che è il trailer di Golpe nella prigione verde, il documentario che è stato confezionato da Roberta Ferrari con il suo collega appunto in Honduras. Io vi invito a postare, se avete domande appunto al nostro ospite, domande su Facebook oppure via SMS al 349-238-6666, dove arrivano i primi commenti non tanto su senatori e businessman honduregni, dice questo ascoltatore Cristiano, ma dice addirittura la droga è un grande affare anche per businessman e senatori americani. Torniamo a Roberta Ferrari perché stavamo facendo un ragionamento sulle, come dire, peculiarità di questo golpe. Dicevi intanto il primo dell'amministrazione Obama e la seconda cosa che la popolazione ha avuto la forza, il coraggio di alzare la testa e si è creato un supporto, un movimento di massa piuttosto strutturato. Sì, è un movimento che nasce spontaneamente nelle piazze e che è un movimento appunto che all'inizio prende il nome di Fronte Unito contro Fronte appunto di Resistenza Nazionale contro il Golpe, e che poi negli anni, nei due anni successivi al passeranno due anni prima che Zelaya riuscirà a tornare in Honduras grazie agli accordi internazionali. Di questi accordi internazionali fa parte anche il riconoscimento del Fronte come partito politico. E quindi appunto non, è un partito politico che riunisce delle forze che si sono formate spontaneamente sia fra gli studenti ma anche fra i sindacati, i maestri, insomma la società civile, che ha reagito diversamente da altre volte che insomma... Sì. Aveva dovuto abbassare la testa. Roberta, poi che fine ha fatto Zelaya? Perché lui è stato due anni, nel documentario racconti, fai vedere molto bene come lui a un certo punto arrivi dalla frontiera del Nicaragua con un codazzo, no, di persone, sostenitori che per arrivare ad accoglierlo, già che i militari honduregni avevano chiuso l'accesso alla frontiera, avevano attraversato a piedi le montagne per appunto creare un cordone di benvenuto, no, di bentornato. Poi lui non riuscì a entrare immediatamente. Poi finalmente, dicevi tu, grazie a accordi internazionali è entrato, questo l'anno scorso, e poi che ruolo gioca? Ma Zelaya è rientrato nel 2011 grazie a dei difficilissimi accordi internazionali, nel quale appunto la diplomazia ha giocato un ruolo piuttosto ambiguo, perché inizialmente avevano condannato il golpe tutte le democrazie, e poi alla fine è stato un governo, comunque il fronte aveva chiesto di non riconoscere le elezioni che avrebbero portato alla presidenza a Lobo, e quindi il governo di Lobo è assolutamente un governo illegittimo. Che invece è stato riconosciuto e che tuttora fa affari con tutti i paesi che inizialmente avevano appunto condannato il golpe. Zelaya ha sicuramente, da quando è rientrato, ha comunque innanzitutto ha innescato questo movimento di piazza, che non è più neanche legato a Zelaya, perché è un movimento che è ben consapevole dei limiti stessi anche di Zelaya, ma che si batte per una legalità, che non è Zelaya sì o Zelaya no, sì. Ecco, non, quindi non è un movimento unicamente a favore di Zelaya, sì. E Zelaya non può ripresentarsi all'elezione, non ha intenzione di farlo, lo farà per lui probabilmente sua moglie, però diciamo appunto è stato dietro alla diplomazia internazionale, che solo dopo due anni ha fatto sì che potesse rientrare, e non è mai stato riconosciuto come presidente comunque che ha subito un colpo di Stato. Ecco, ecco, non, per come dire, aggiungere un punto di vista in più per leggere questo complicatissimo paese, si diceva, del narcotraffico, che rimane un potere formidabile quando riesce a infilarsi nei paesi, soprattutto quando gli stipendi sono bassi, quando c'è una classe politica o militare facilmente corruttibile. Sempre The Nation, l'inchiesta di The Nation che citavamo all'inizio cita Alfredo Landaverde, ex parlamentare e commissario di polizia che era responsabile di indagini sul commercio di droga, aveva dichiarato che un parlamentare su 10 è un narcotrafficante, e anche esponenti politici di primo piano erano coinvolti nel commercio. Landaverde è stato poi assassinato il 7 dicembre del 2011. Questo è quello che accade, diciamo, alle alte sfere honduregne. Ma torniamo alla gente, torniamo al popolo, quello che è sceso in piazza. E il termine popolo, che noi, che forse suona un po' retorico, suona forse un po' desueto, no? E però poi tu lavori lì in America Latina e come dire, cambia un po' il parametro, cambiano anche le aree semantiche, se vogliamo, no, Roberta? Anche certi canti che non si sentivano più da tempo, sì, non sono retorici, no? Sì, perché diciamo che lì più che mai sono termini attuali, che sia quel termine, cioè soltanto le persone parlano di se stesse come popolo, piuttosto che come lotta per la democrazia, una serie di termini che qui personalmente leggo a un passato che non appartiene appunto a due generazioni almeno prima di me, ecco, non sono più termini attuali o termini nei quali noi crediamo, lì sono decisamente attuali, come anche hanno una dimensione reale e concreta. Anche lo stesso narcotraffico, da qui uno si immagina il grande narcotrafficante, poi in realtà è un'economia diffusa, sì. Anche una microeconomia, non solo una macroeconomia, cioè genera lavoro, le uniche infrastrutture che ci sono in Honduras se le hanno fatte i narcotrafficanti comunque, non è una cosa difficile da vedere, sì. Ecco. Sì, sì, come sì. Non è difficile da vedere anche questi termini, questa attualità, in Honduras ha senso dire sono contro le oligarchie, perché comunque sono 12 famiglie famiglie che dominano il paese. E, da qui potrebbe sembrare un po' combattente come termine, invece io ho trovato appunto una società civile che va dagli studenti di 20 anni agli avvocati di 50 piuttosto sì. che i maestri, tutti uniti nella loro consapevolezza, e che passa attraverso quei termini che sono pienamente d'accordo con te, c'è una complicità anche di linguaggio, no? Qui non potremmo dire il popolo italiano, non esiste il popolo italiano per quanto mi riguarda, in Honduras sì. Cioè, vuoi dire che esiste c'è stato un risveglio di una coscienza, diciamo, contro chi nell'opinione del popolo stesso appunto attentava la democrazia, che in qualche modo rimandava ad altri tempi. Al 349-238-6666 intanto un sms si firma famiglia di venezuelani fuggita in tempo, dice: Zelaya è lui il vero dittatore, su lui e Chavez vincono le elezioni solo con i brogli e ci accusa di raccontare solo falsità. Ma allora intanto abbiamo ricapitolato dei fatti che sono innegabili: il golpe vi è stato e questo è fuori di discussione. Che Zelaya abbia vinto le elezioni con i brogli, ma intanto non si è ripresentato, tant'è che si ripresenterà la moglie, ma non so, francamente, Roberta, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, io non, insomma, ognuno ha le sue idee, la famiglia di venezuelani sicuramente avrà alle spalle una storia che è diversa dalla mia. Io non sono honduregna, ho un punto di vista sia sull'Honduras che sul Venezuela, e non presi a sé come personaggi sia Chavez che Zelaya non possiamo fare delle valutazioni se li isoliamo dal contesto in cui vengono fuori questi personaggi, ecco. Sì, anche perché voglio dire, non dobbiamo dimenticare quelle che sono anche state le ombre, che sono le ombre di Zelaya. Qua non stiamo parlando di duri e puri, no? Cioè, assolutamente no, e non ho voluto neanche presentarlo così nel mio video, ma non solo, anche nella misura in cui mi sono confrontata con persone honduregne ho sempre specificato, e anche comunque devo dire che non ho mai notato un'esagerazione nella presentazione di Zelaya neanche da parte degli stessi honduregni. Erano ben consapevoli della classe politica che hanno. Lo stesso Zelaya nasce come proprietario terriero, è assolutamente innegabile che Zelaya abbia adottato delle misure democratiche che in Honduras non si erano mai viste. Ecco, fra l'altro nel tuo documentario ricordi che lui ha alzato il livello minimo dei salari di una percentuale corposa, insomma questo è stato un segnale che sicuramente, come dire, l'ha reso ben voluto. Un 60% di innalzamento del salario minimo, e che e non solo, ma anche poi delle proposte di legge per ridimensionare questo strapotere delle oligarchie. Non credo si possa fare un discorso Chavez, cioè una cosa è Chavez, una cosa è Zelaya, una cosa poi è come vive la gente quotidianamente. Sì, ecco, anche se è vero che, come dire, in qualche modo un filo rosso che lega Zelaya a Chavez, quantomeno in chiave anti-americana, no? Ah, indubbiamente Zelaya, ma infatti vorrei rispondere anche ai venezuelani che comunque la prima cosa che ha fatto Micheletti appena è stato eletto presidente, appena ha firmato l'atto di presidenza, è stata fare uscire l'Honduras dall'ALBA, che è l'organizzazione crea fondata da Chavez e da Castro, e che ha un significato ben importante, che è quella proprio di dimostrare che i paesi latinoamericani non hanno più come prima preoccupazione tenersi buona Washington. Cioè, è inutile adesso, gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato le dittature in Centro America e in Sud America, si trovano a fare i conti con un processo di democratizzazione che ha anche dei leader politici, ma non c'è solo Chavez, c'è anche Correa, c'è la Bolivia, ci sono le basi americane NATO che chiudono, c'era in ballo anche quella dell'Honduras che poi sì. infatti è rimasta. Cioè, sì. Non, sì, che ricordavamo con Darine a inizio trasmissione, quel piedino, tra virgolette, degli esatto. Stati Uniti in territorio honduregno. Torniamo, ed è la mia ultima domanda, Roberta, poi ti lascio al tuo lavoro. Il livello di consapevolezza dei cittadini honduregni, consapevolezza politica, proprio per questo rischio, come dire, di ideologizzazione, no? Di vedere gli Stati Uniti come il grande diabolico nemico oppure l'amico che ci viene in soccorso, questo pericolo è sempre in agguato quando si parla di America Centrale, perché gli interessi statunitensi sono enormi. C'è propaganda, c'è utilizzo dell'informazione. Ecco, quanto hai trovato gli honduregni durante quei giorni così drammatici consapevoli di quello che stava accadendo? Perché poi ricordiamo che i media sono stati chiusi, soltanto una piccola radio, no? Radio Globe trasmetteva. Quanta consapevolezza c'era per le strade? Ma io io credo che ho trovato un altissimo livello di consapevolezza, che è la cosa forse che mi ha stupito di più, e credo che sia anche in qualche modo un effetto non voluto dai media. Il fatto che i media non ci siano ti porta un po', ti mette nelle condizioni di documentarti in un altro modo, quindi in realtà le informazioni circolavano, non avevano poi un risvolto mediatico, un supporto diciamo mediatico, se non relegato al tempo della news straniera e comunque un tempo quotidiano che si esaurisce con un'edizione. Quindi io ho trovato un popolo decisamente consapevole, informato, ma anche perché vive sulla propria pelle appunto quella che per noi è una storia lontana, cioè Desaparecidos piuttosto che cimiteri clandestini, quella è la quotidianità. Quindi sono rimasta veramente colpita, sì, dal livello di consapevolezza assolutamente trasversale, e anche della tranquillità con cui affermavano appunto quasi tutti che non è un discorso pro Chavez o non pro Chavez, certo ha delle conseguenze di questo tipo, però lo erano assolutamente per la legalità, legalità che hanno visto totalmente infranta a partire dal 28 giugno, ecco, e sicuramente, come ha detto uno degli intervistati, diceva sì, viviamo in una piccola prigione verde, però il banano sta maturando. E questa direi che è emblematica, insomma, per fotografare la situazione che tu hai fotografato col documentario fresco di uscita su Facebook. Gentili ascoltatori, troverete il trailer. Grazie Roberta Ferrari per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E continuiamo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano a indagare questo piccolo paese, piccolo dalla storia drammatica, paese dell'America Centrale. Lo faremo più tardi continuando con le immagini, perché avevamo una filmmaker e adesso avremo un fotografo, perché sapete, ci piacciono, fanno sempre quel passettino in più che consente di comprendere meglio la realtà. Adesso il traffico, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. (349) 238-6666, gentili ascoltatori, per commentare quello di cui stiamo parlando quest'oggi, che è il tentativo di fare una radiografia di un paese piccolo ma cruciale, così strategico. È il numero che ha composto Antonio da Pescara, che mi sfida e dice: sicuramente non risponderete, e dice: parlate solo per ideologia, un popolo offeso avrebbe fatto la rivoluzione, ma perché non ve ne andate a vivere a Cuba, visto che vi piacciono tanto questi dittatori comunisti? Ma a me non piacciono i dittatori comunisti, a me francamente non piace, non do giudizi, cerco di raccontare partendo dai fatti, poi ho degli ospiti che hanno delle loro visioni, dei loro punti di vista. Questa regista Roberta Ferrari, invito anzi l'ascoltatore a andarsi a vedere il trailer, l'abbiamo postato su Facebook, ha una sua visione, come tutti quelli che assistono a dei fatti e raccontano quei fatti, però porta anche delle testimonianze, quindi non mi sembra che la trasmissione sia stata improntata all'ideologia. Anzi, una delle mie domande era proprio a Roberta Ferrari, proprio su questo aspetto, cioè quanta ideologia c'era tra le persone, tante centinaia, che lei ha incontrato durante quei giorni. Ma ripeto, sono opinioni. Opinioni invece difficili da inserire quando si fa click con la macchina fotografica, quando ci si sporca le scarpe, si consumano le suole e si va appunto in quei posti a ficcare il naso. Nanni Fontana, buongiorno. Buongiorno a voi. Nanni Fontana, fotogiornalista, ha lavorato a Tegucigalpa, ma non solo, e ha fatto un lavoro, noi fra l'altro posteremo adesso il link al suo sito, nannifontana.com, c'è questa serie di ritratti, ma non solo, che mi sembra che, come dire, fotografino, è il caso di dirlo in senso letterale, molto bene quella che è la violenza strisciante nelle strade della capitale honduregna. Hai incontrato, hai fatto un lavoro sulle gang di strada, i cui membri sono tatuati a dismisura, un po' ovunque, addirittura il viso molte volte, e il tatuaggio è un po' il segno di riconoscimento, no? Addirittura la polizia, quando interrogava, o meglio, perché questa usanza si sta un po' perdendo, interrogava un sospetto, la prima cosa che faceva era guardare le braccia, far tirare su la maglietta per osservare petto e schiena e per capire, insomma, di che gang faceva parte. Nanni, per iniziare ti chiederei una storia su tutte, visto che tu hai guardato negli occhi un po' di persone che avevano storie abbastanza importanti alle spalle. Una foto, un ritratto e una storia su tutte per iniziare. Una foto che poi ho anche deciso di usare come foto simbolo del lavoro è quella di questo ragazzo molto giovane che ho fotografato nella prigione che c'è a Tamara. La prigione si chiama Marco Aurelio Sotto, è la più grande dell'Honduras ed è una prigione per capire il livello di violenza di questo paese. Io ti parlo del 2009, ma credo che le cose siano solo peggiorate. Sì. Una prigione all'interno della quale nel 2008 sono stati uccisi 200 prigionieri. E in questa prigione ci sono tre rami separati, uno è per i detenuti comuni e gli altri due sono, anzi sono quattro, perché due sono per i membri delle due principali gang che si chiamano Maras nel paese dell'Honduras e in tutto il Centro America, che sono la Maras 18 e la Mara Salvatrucia, e ce n'è uno speciale per i ragazzi che cercano o hanno cercato di uscire dalle Maras e che per questo motivo non possono restare nelle zone dedicate alle rispettive Maras perché verrebbero immediatamente uccisi in quanto traditori. Uno di questi ragazzi si chiama Nelson e anche se in realtà tutti i membri delle Maras appena battezzati all'interno del gruppo ricevono un nome, nel suo caso era El Sombra. E che significa, scusa, per chi non parla spagnolo? L'ombra. Perché, l'ombra. Ecco. Che lascia presagire anche le sue... È bravo, secondo i suoi racconti, a muoversi appunto al buio per compiere le sue attività più o meno criminose, e due tatuaggi in particolare che a questo ragazzo mi avevano colpito tanto da chiedergli il motivo, ed erano il primo che recita sul petto Trust No Beach, che vuol dire non ti fidare di nessuna donna, per un termine un po' più volgare in realtà, perché mi raccontava che una delle metodologie utilizzate per compiere agguati nei confronti degli avversari era proprio quella di mandare delle belle ragazze per farli ubriacare, fargli pensare di poter passare una bella serata e poi invece aprire la porta ai complici che avrebbero dovuto compiere poi un omicidio o quel che era. E un altro che porta invece sul braccio destro erano queste specie di papiri che portano delle date, il 98, il 99 e via dicendo, e anche in questo caso gli chiesi il significato del tatuaggio e mi spiegò, il significato era quello che ogni papiro, ogni data rappresentava un omicidio, il primo era quello del 98 e lui mi disse questo è stato quando ho iniziato la mia carriera artistica. Yo. Para Reynosa, Tamaulipas. Cano y Blanc. ¿Qué fue? No ves la calma ni al final de esta guerra. Vida de gánster, balaceras y loqueras. Esta es mi frontera, esta es mi ciudad. Ecco, la musica rap fa parte della costruzione di una mitologia criminale, di un'epica criminale a cui le gang ovviamente fanno immensi riferimenti anche con i tatuaggi. E facevamo riferimento con Nanni Fontana, fotogiornalista che ha fatto alcuni lavori proprio in Honduras e a Tegucigalpa, facciamo riferimento al fatto che chi vuole uscire da quel mondo deve cancellarsi i segni dal corpo, deve cancellarsi i nickname di battaglia, deve cancellarsi le date in cui magari ha ucciso un poliziotto, in cui ha sgominato la gang, e quindi lì entra in gioco la pulizia laser, e vi sono dei personaggi in Honduras che lo fanno di nascosto. Quanto, Nanni, quanto è infamante l'uscita da una gang? Cioè, quanto rischio io se a un certo punto decido di abbandonare la 18ª perché non ne posso più e quindi mi ripulisco il corpo? Più che infamante è una sentenza di morte, nel senso che la gang nasce come un'alternativa alla famiglia. La grande povertà del paese spinge i giovani, abbandonati o meno che siano dalle rispettive famiglie, ad abbracciare il mondo delle gang proprio per ricostruirsi una vita all'interno di un nucleo che è però totalizzante e che lo è fin dall'inizio, nel momento in cui il ragazzo o la ragazza, perché ci sono anche molte ragazze che fanno parte delle gang, vengono accettati dalla gang, il battesimo è una un rito in cui il giovane aspirante membro viene sostanzialmente messo in mezzo a un gruppo di tante persone e deve difendersi. Il secondo passaggio è quello di compiere un primo atto criminale, il più delle volte un omicidio, ed è una sorta di firma col sangue, di appartenenza, e quindi l'abbandono della gang è appunto l'equivalente di una sentenza di morte. Ti interrompo un anno perché stai raccontando di personaggi comunque che hanno fatto della violenza almeno una parte della loro vita. Abbiamo sentito dalla scheda inizio trasmissione, in Honduras c'è un morto ogni 74 minuti, è la città al mondo, è il paese al mondo col più alto tasso di omicidi. Certo non è una passeggiata andare a lavorare in quel paese. Quanto avverti la tensione per strada, se la avverti? Come fa un fotografo a girare? Giri con la macchina al collo? Quanto libero sei di girare? Quanta fatica fai a entrare nelle storie? Ma la tensione si avverte ed è altamente visibile. Ci sono quartieri dove le case sono circondate da filo spinato, persone armate alle porte, tutti i centri commerciali, e parlo quindi delle zone diciamo più moderne. In quelle nei sobborghi periferici dove le maras ancora hanno un ruolo dominante non ci si avvia da soli a piedi in questi posti. Per raccontare le storie nel mestiere che faccio, quello che fa la differenza sono i contatti che uno riesce a trovare, quindi persone che sostanzialmente abbiano le chiavi per aprire delle porte all'interno delle quali si trovano le persone, le storie, le realtà che si intende fotografare. Ecco, tu ci sei stato già, credo, più di una volta, almeno a giudicare dal lavoro. Ci tornerai? Quando riaprirai quelle porte, se posso chiederti, in chiusura? Ma in realtà non vado dalla fine del 2009 in Honduras. Il lavoro lì è nato un po' per caso, io non sono un appassionato di Centro America. Spesso penso di tornare, e di tornare però in Mosquitia, che è una regione nell'est del paese, caratterizzata da mille altri problemi, e anche, per ricollegarmi a quello di cui parlavate prima, alla presenza degli Stati Uniti, che ha mandato diverse unità a dare supporto alle forze armate honduregne nella lotta al narcotraffico. Sì. Ed è un paese che a me, ed è una zona che a me è rimasta nel cuore per i lavori che ho fatto lì, che si occupavano in realtà poi di salute materno-infantile. Sì. E fra l'altro parte di questi lavori li possiamo vedere, abbiamo postato il tuo sito qui su Facebook. Il tempo stringe, ahimè. Nanni Fontana, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro e buoni scatti. Buon lavoro. E adesso sì, giriamo il mappamondo. WhatsApp, notizie dall'altro lato del mondo. Sì, perché mi premeva tornare sulla questione tunisina. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, quella proposta di riforma dell'articolo 28 della Costituzione che definirebbe la donna non più uguale all'uomo ma complementare. Ebbene, il movimento femminista e liberale tunisino incassa un bel appoggio, è quello dell'ONU, che in una dichiarazione si dice inquietato da quello che potrebbe essere appunto questa proposta di riforma. E poi un'altra questione che ci sta particolarmente a cuore, di cui ci siamo occupati in queste puntate, in questo mese, a nessun luogo lontano, la questione Rom in Francia. Ebbene, oggi Le Monde dedica un paginone a quella che potrebbe essere in qualche modo l'inizio della fine di questa questione, nel senso che l'esecutivo sarebbe pronto a togliere quelle barriere all'impiego nel senso al lavoro destinate ai cittadini rumeni e bulgari che hanno questo regime transitorio. Bene, sarebbe disposto appunto a fare un'apertura in questo senso, mettendo fine alla discriminazione appunto di questa minoranza. E poi c'erano altri sms anche di risposta, non abbiamo tempo, magari ci torniamo domani. Non mi resta che salutare Mira Lucchetti, Massimo Brugnoni in redazione, Paolo Corleone la parte tecnica. Noi ci sentiamo domani, un saluto da Giampaolo Musumeci.